Natalino? C'è qualcuno qua? Il Babbo Natale c'è. Sì, ciao. Vabbè. Beh, ho acceso adesso. Uia, mi sono sentito male stamattina, guarda. Ne butti più. E come mai? Sì, non lo so. Non fumare, Natalì, cazzo, non fumare, non fumare.